Superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora, eccolo. Buongiorno, non perdiamo un'ora ma nemmeno un minuto, sono le 15 e 3 minuti primi. Adesso inizia in questo mercoledì 6 di aprile la Conta, trasmissione contro il carcere e contro tutte le istituzioni concentrazionali, quelle che rinchiudono, quelle che recludono, di Radio Onda Rossa, appunto, che va in onda ormai da 10 anni ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Bene, intanto oggi continueremo o riprenderemo il discorso sull'abolizionismo, cercheremo di dargli, provare ogni volta a dargli un po' un significato proprio più vasto di quello che ha questo termine e perlomeno quello che dovrebbe significare in questa situazione, in questa fase della vita degli umani molto brutta, insomma, no? E tra l'altro che si porta appresso da ben 500 anni questa struttura terribile, orribile, che è appunto il carcere. Va bene, ma non è solo il carcere, l'abolizionismo è tutto il sistema penale. Ci torneremo tra un po'. Intanto vediamo le iniziative. Ci sono delle iniziative a breve, esattamente a metà di questo mese, il 16 di aprile, ci sarà una concentramento, un sit-in sotto il carcere di Terni. Sapete dove è Terni, in Umbria. Il carcere di Terni si trova a l'indirizzo è Strada delle Campore 32. Poi che la prossima volta, insomma, vi daremo il prossimo mercoledì anche le indicazioni per raggiungerlo con i mezzi propri, abbastanza facile, oppure con i mezzi pubblici. Perché questo sit-in sotto il carcere di Terni? È dentro la campagna che si è titolata Pagine contro la tortura. Pagine contro la tortura è un'iniziativa messa in piedi da diversi collettivi di varie città italiane, di alcune città italiane, che segnala il problema che veramente è una tortura, quello del 41 bis, cioè la detenzione del 41 bis. Ne abbiamo parlato più volte, tante volte, proprio perché il 41 bis è un po' l'apice, la punta dell'iceberg del sistema carcerario, del sistema reclusorio. Il 41 bis, sapete, è un sistema di carcerazione che riprende il percorso dei carceri speciali messi in atto, messi in piedi negli anni 70 e 80 per devastare, distruggere il movimento che in quegli anni si era realizzato, non solo il movimento ma anche le iniziative, diciamo, di parte della realtà proletaria, che infrangevano sì la legge, però per produrre livelli, sistemi anche di socialità diversi, contrastando, diciamo, il dominio e l'espansione della proprietà privata, che poi purtroppo invece, essendo stati battuti quei movimenti, sia i movimenti politici, sia il conflitto di classe, sia anche questi atteggiamenti extralegali proletari, è chiaro che ha ripreso, e oggi questo tsunami, questa onda tremenda, mefitica, veramente asfissiante e estremamente dannosa, velenosa, della proprietà sta ovviamente occupando tutto il pianeta. Ma questo non significa che non bisogna lottarci contro. Dunque, e quindi Pagine Controllate la tortura tende a segnalare ancora il problema del 41 bis, che non solo, per come l'abbiamo detto noi, coloro, cioè, che si occupano di carcere e critica il sistema carcerario attuale, ma anche per alcuni organismi internazionali sopra le parti, come Amnesty International, come la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, delle Nazioni Unite e tanti altri, hanno definito il 41 bis come tortura. Perché? Semplicemente per due motivi sostanzialmente. Beh, uno, per il livello di violenza che lo Stato usa nei confronti delle persone detenute in quel regime, cioè in 41 bis, e due, perché l'unico modo di uscire dal 41 bis, da questa condizione di reclusione, da questo regime di reclusione, è quello di mandare al tuo posto un altro. Cioè, se tu collabori, cosiddetto, cioè fai il delatore, se tu fai il delatore o la delatrice, perché vale per entrambi i sessi ovviamente, se uno fa il delatore e fa arrestare un'altra persona dicendo che tu è una persona implicata nelle attività criminali organizzate, eccetera, e a quel punto è l'unico modo per uscire. Quindi questo è esattamente come la tortura perché ti fanno quelle sevizie, non solo per farti confessare quello che tu hai fatto, quello non interessa perché ormai ti hanno arrestato, ma per farti dire quello che permette di arrestare altre persone. Ormai sta venendo fuori con chiarezza, per dire, l'ultimo caso tremendo, terribile, devastante, di cui però se ne parla, è l'uccisione di Giulio Regeni, questo ricercatore italiano che stava in Egitto, ucciso barbaramente, appunto, dopo giorni e giorni di tortura. Veniva torturato perché probabilmente quello che sta emergendo, ma si immaginava fin dall'inizio, le persone sensate, non voglio dire intelligenti perché sembra offendere gli altri, ma le persone con un minimo di buon senso capivano che quelle torture erano state fatte da chi, da parte della polizia, voleva estorcere, diciamo, dei nomi che Regeni probabilmente conosceva, o comunque si sospettava che conoscesse chi erano. Lui faceva delle inchieste sui sindacati indipendenti nell'Egitto, che sono vietati, sindacati indipendenti che lottano, cercano di fare in modo di organizzare i lavoratori per evitare quelle condizioni di supersfruttamento che hanno. Ebbene, siccome questi sindacati indipendenti vengono visti come il nemico principale, come sempre in tutti i regimi capitalisti che più sono feroci, il sindacato vero, quello che lotta, viene visto come nemico, perché fa migliorare le condizioni del lavoro, quindi fa aumentare il costo del lavoro, e quindi i padroni, cioè, ci rimettono un po', diciamo, comunque non guadagnano quanto vorrebbero comunque. E allora volevano, probabilmente, come aveva dei contatti con i sindacati indipendenti, volevano estorci dei nomi di dirigenti di sindacati indipendenti, e per questo l'hanno torturato. Per questo nessuno ha mai creduto alla vicenda al fatto che Giulio Regeni fosse stato ucciso dalla malavita organizzata, dalla malavita, da sequestratori, perché non potrebbe essere anche che ti prendono e ti uccidono perché vogliono scambiarti con denaro o altro, ma che senso ha torturare? Quindi interessa o ammazzarti perché ti vogliono levare di mezzo, oppure scambiarti con soldi, no? È ovvio quindi che la tortura serve solo ad estorcere, e il 41 bis serve a questo, ad estorcere confessioni. Quindi è tortura, per come l'ha definita non noi appunto, ma le Nazioni Unite. Ora, quindi è vera e propria tortura. Andrebbero chiuse immediatamente se in Italia ci fosse uno straccio di legge contro la tortura, ma non quella che stanno discutendo al Parlamento, che è veramente ben misera cosa, ma una legge sulla tortura che affermasse, come appunto è scritto nella declaratoria dell'ONU che dice a tutti gli stati: immettete nel vostro codice penale il reato di tortura, che è specifico degli agenti di polizia ed è volto a diciamo violenze fisiche o anche psichiche per estorcere confessioni o nominativi, indicazioni. Questo è il discorso. Allora, il 41 bis viene chiamato tortura, quindi, e sia chiaro per tutti, al di là di chi ci sta, ci può essere simpatico, antipatico, brutta persona, tremenda, malvagia, crimine, non ha importanza, chiunque viene messo in 41 bis viene portato in tortura. In Italia ci stanno circa 700-800 persone sotto tortura, non è una bella cosa. Non siamo un paese civile, questo si può dire, non ha importanza chi ci sia, perché se la tortura passa per la persona più abietta, più criminale, poi vuol dire che passa per tutti. È possibile che passi per tutti. Le brave persone non possono sentirsi tranquilli quando lo Stato effettua violenza trucida nei confronti dei cattivi, perché domani si può ritorcere verso di loro, e questo è un insegnamento di 10.000 anni della storia delle realtà sociali umane. Dunque, in più è successa un'altra cosa recentemente, che oltre tutte le condizioni, in due parole sapete come vengono trattati in 41 bis: chiusi in cella 24 ore al giorno, un'ora d'aria in due o tre, non di più, sempre gli stessi, in un cortile che è poco più grande della cella, chiuso come una gabbia, e per il resto nessuna socialità, il colloquio una volta al mese, insomma, tutto ciò che è nell'ordinamento penitenziario a favore del detenuto è in qualche modo vietato. Ultimamente gli hanno tolto anche la possibilità di ricevere libri dall'esterno o anche di prenderli dalla biblioteca del carcere dove si trovano. Perché? Perché l'idea, cioè il sospetto, tremendo sospetto, è quello di dire: attraverso lo scambio di libri si scambiano delle notizie, delle informazioni. Pure respirando si scambiano informazioni, ed è questo, no, non è che mo ho inventato questa cosa, è questa cosa dell'invenzione, della respirare, era un'accusa che si rivolgeva al tempo della caccia alle streghe, nei confronti appunto delle streghe e anche dei maghi. Si diceva: tu nel respirare mandi messaggi al diavolo, al maligno che ti possiede. E quindi venivano, in quanto respiravano, ovviamente gli esseri umani è difficile che non riescano a respirare, era la prova, l'ordalia, la prova di Dio che diceva: sì, questa è una strega, è un mago, va bruciata. Vabbè, per dire come sta andando avanti la civiltà, no? Vabbè, qui tutti tacciono perché l'omertà che c'è in Italia non c'è solo nelle organizzazioni mafiose, lì c'è in quelle ndranghetiste, camorriste, eccetera, ma c'è anche nel perbenismo dei bravi padri di famiglia e anche madri di famiglia. Ce n'è molto, perché se uno si mette a dire beh, è un po' una vergogna tenere le persone in queste condizioni, tipo 41 bis, c'hanno la paura, chi si sentirebbe di dire queste cose e le vorrebbe dire, ha paura che poi viene: ma che fai, difendi i mafiosi? E certo, ovviamente difenderei anche i mafiosi. Cioè, il problema non è tanto, il giudice giudica una persona per quello che ha fatto, dopodiché come viene trattato questo, dopo torna a essere un essere umano, dopo la fase processuale, una persona, ma questo lo dice anche il diritto borghese, liberale, nella fase del processo si stabilisce che cosa hai fatto, le malversazioni, eccetera, e quindi viene condannato a un tot, a una pena. Finita quella funzione del processo, la persona dovrebbe tornare a essere un essere umano, quindi con tutte le garanzie di mantenimento. Va bene, per chiudere questa informazione, per tutte queste cose è in corso questa campagna che vedrà una serie di sit-in, di presidi sotto le carceri, al cui interno ci sono i reparti di 41 bis, per dire questa cosa qui, oltre tutta la campagna che abbiamo spiegato altre volte di mandare libri in carcere ai detenuti in 41 bis, in modo che questo fa vedere a chi di dovere che la cosiddetta opinione pubblica, comunque le persone sono solidali, perlomeno non accettano un trattamento così vigliacco e di tortura, insomma di vera e propria tortura che lo Stato fa nei confronti di questi detenuti. Quindi la campagna della pagina contro la tortura è questa cosa, è contro il 41 bis e contro l'ultimo atto del divieto di libri, di ricevere libri per i detenuti in regime di 41 bis. A questo punto prevede, appunto in questa fase prevede dei sit-in nelle carceri. Il 16 aprile, quindi fra 15 giorni, ci sarà sotto, oggi è 7, quindi esattamente fra 14 giorni, ci sarà sotto il carcere di Terni alle ore 15. Poi il prossimo mercoledì daremo tutte le indicazioni per arrivarci. Allora riprendiamo la diretta alle 15:17, quasi 18. Dunque, ancora prima di parlare di nuovo dell'abolizionismo, vediamo che cosa sta succedendo in questi giorni nelle carceri. Dunque, lunedì sul giornale Il Sole 24 Ore, un giornale importante, il giornale della Confindustria, importante perché appunto dei padroni, che però si occupa spesso di carcere perché appunto segue le modifiche che, essendo un giornale attento a quello che succede nel paese, perché appunto è il giornale che dà le notizie agli imprenditori, i banchieri, cioè ai padroni per muoversi, quindi dà notizie abbastanza precise. E da tempo segue le questioni del carcere perché ha notato da tempo, ma noi l'abbiamo notato prima di loro, ma non è un problema di chi è prima chi dopo, che la situazione penale in questo paese sta cambiando. Il carcere sta in qualche modo diminuendo le proprie presenze, si sta spostando l'ordine della repressione su altri terreni, l'abbiamo spiegato tante volte, cioè si passa dal carcere, da detenere la persona, a controllare il territorio ove la persona vive e dove fa le cose che appunto l'hanno portata a sotto il taglione della repressione. Questo è il cambiamento che sta avvenendo lentamente e purtroppo, lo devo dire veramente con un groppo alla gola, diciamo il movimento non si occupa, non si sta occupando con l'attenzione necessaria di questo cambiamento, per cui si troverà in faccia come sempre i cambiamenti a cose fatte, mentre invece intervenire in tempo potrebbe permettere di costruire le contromisure per evitare che la cosa poi ti trovi i territori completamente in mano alle forze dell'ordine. Ma comunque questo è un altro discorso. Il discorso adesso di che cosa si occupava il Sole 24 Ore, del braccialetto elettronico, che è da quando è stato criticato da tutti quelli che appunto un po' superficialmente, scusatemi questo nota, ma che ci sia troppa superficialità a parlare di carcere e degli altri sistemi repressivi è noto, lo si vede da quello che si dice rispetto alla realtà. È stato criticato il braccialetto elettronico, sistema di controllo, ci controllano dentro da tutte queste che qualcuno ha detto, ci mettono il chip in testa, tutte cazzate. In realtà il braccialetto elettronico oggi è diventato uno degli obiettivi più ambiti, ricercati, voluti dai detenuti. Perché? Perché col braccialetto elettronico si raggiunge prima le misure alternative. Siccome c'è questo movimento lento, molto lento, come tutti i cambiamenti sono molto lenti, ma sta avvenendo, di trasferimento dal carcere in misure alternative dei detenuti, considerate che negli ultimi due anni si è passato da 68.000 a 52.000, quindi lo svuotamento è abbastanza notevole, ma non è che sono andate in libertà queste persone, attenzione, sono passate da un controllo totale carcerario a un controllo che si chiama controllo penale esterno, cioè misure diverse. Non solo, ma c'è un altro fatto che sta avvenendo nella poca attenzione del movimento in generale, il fatto che la gran parte oggi delle misure sanzionatorie nei confronti di chi fa una manifestazione, chi fa un sit-in non vietato, non voluto dalle forze dell'ordine, chi si scontra con le forze dell'ordine, chi fa altre cose eccetera, più che denuncia e poi processo e poi carcere, viene intanto gli vengono applicate le misure amministrative, le sanzioni amministrative, che non hanno tutta quella lungaggine di passare per la magistratura, vengono date immediatamente, stanno sotto queste misure amministrative date immediatamente dalla questura, quindi direttamente dalla polizia, sono misure che limitano la libertà e danno il marchio. Queste due stesse cose, che sono quelle che si riscontrano in carcere, cioè l'isolamento dall'ambiente sociale da cui provieni, in cui lavori, in cui operi, e il marchio in fronte, lo stigma di delinquente. Queste due cose non vengono perdute nel passaggio dal carcere al controllo territoriale, ed è questo che ci frega, insomma, no? Non ci guadagniamo niente, certo, per una persona che sta in carcere andare in misure alternative è una boccata d'aria, perlomeno nell'immediato lo vede come una liberazione, può muoversi, può vedere chi vuole, certo, però non volendo darà una serie di informazioni reali sul suo ambiente sociale, no? di relazioni sociali alle forze dell'ordine. Questo è così, è inevitabile, per questo viene fatto. Allora, questo sta avvenendo appunto che all'insegna del termine pericolosità sociale, mandate a memoria questa parola perché viene sempre più usata e verrà sempre più usata, cioè alcune persone per quello che fanno, conflitti, occupazione di case, manifestazioni oppure anche attività stralegali di vario tipo, vengono bollate come persone pericolose socialmente. Che vuol dire? Non vuol dire niente, una parola tra l'altro coniata dal regime fascista il centenario di 80 anni fa, per bollare le persone che casomai non facevano niente contro il fascismo, però non erano succubi degli ordini che dava il regime fascista, e quindi, non potendo mandarli in carcere, altre cose, perché non facevano un reato, le bollava come pericolose socialmente, che se gli toglieva una serie di elementi di libertà, appunto, sono le misure invalidanti, interdittive, quelle misure che non permettono di fare quello che facevi prima. Queste cose si stanno diffondendo, ci stanno dei sindacalisti, per esempio dei sindacati di base, che stanno prendendo a raffica questi marchi di pericolosi socialmente, perché hanno fatto uno sciopero, un picchetto, hanno partecipato a uno sciopero che in Italia ancora è libero, almeno secondo la Costituzione è libero, chiunque può indire uno sciopero, anche un'assemblea di lavoratori in qualunque posto di lavoro può indire uno sciopero, e i sindacati di base sono proliferati, non sono un granché, però insomma i lavoratori non contenti delle grandi organizzazioni sindacali si organizzano in assemblea e aderiscono, fondano comitati di base, sindacati di base più che comitati di base, e fanno gli scioperi che i sindacati confederali non fanno, no? Per portare avanti le proprie rivendicazioni. Bene, lo sciopero presuppone un picchetto, una presenza davanti ai cancelli, è normale, è sempre stato così. Bene, basta quella presenza lì per essere bollati per pericolosi socialmente e prendere una serie di misure. Sono tantissime le misure interdittive o invalidanti, oppure cioè, che non permettono di... è un po' come il DASPO per i tifosi, no? Non puoi andare più allo stadio nei giorni della partita. Qui non è così, perché non c'è un orario in cui avvengono le dinamiche sociali, e quindi ti dicono, per esempio, non, questa ragazza, questa studentessa, questa compagna, studentessa di Torino, ha preso il divieto di risiedere nel comune di Torino, perché a Torino frequentava l'università a Torino, e c'era stata questa, erano stati buttati fuori da un dibattito dove volevano fare un intervento critico nei confronti del rettorato per l'università, che diventa un'azienda che cura i profitti, ovviamente loro criticano questa cosa. Beh, gli è stata messa questa misura interdittiva, no? Non può risiedere nel comune di Torino, così come altri non possono andare in quel comune dove si fanno gli scioperi, cioè queste, le firme, sono tantissime, tutta questa serie di misure invalidanti sono contenute nel testo unico legge di pubblica sicurezza, TULPS in sigla, che è stato coniato nel 1930 dal regime, appunto, che governava in quegli anni, il regime fascista. Non è stato mai cambiato quel meccanismo, non sono stati mai cambiati quelle procedure. Evidentemente ne vanno bene a tutti, fascisti o non fascisti, perché poi chi deve mantenere l'ordine capitalistico ha bisogno di questi strumenti e li usa. Va bene, questo volevamo dire, che appunto il braccialetto elettronico, però siamo allargati troppo, il braccialetto elettronico è diventato uno strumento ambito, perché i detenuti col braccialetto elettronico possono arrivare prima a prendere le misure alternative, quindi uscire dal carcere e andare in questi pletora di misure alternative. Bene, il problema è che i braccialetti, i 2000 braccialetti che l'amministrazione carceraria aveva chiesto alla Telecom e pagati profumatamente, sono finiti, e ci sta una fila di persone che li chiedono. Perché è ambito il braccialetto elettronico al detenuto? Perché non solo esce prima dal carcere, perché altrimenti se deve andare agli arresti in detenzione domiciliare o tutte queste altre misure alternative, ci vuole il tempo, non è che ti viene negato se non c'è il braccialetto elettronico, però deve essere sottoposto a controllo l'abitazione dove vai, la forza di polizia devono dire se è controllabile oppure no, insomma tutta una serie di lungaggini che ti fanno perdere tempo. Se invece c'è il braccialetto elettronico, lo prendi e è una cavigliera che dice su un monitor che hanno le forze di polizia i tuoi spostamenti, e quindi sei controllabile, però ti senti più libero, non c'hai quelli che alle 2 di notte vengono a suonarti a casa, che non è proprio una cosa piacevole, alle 4 di mattina, chi c'è stato sa che vengono in genere alle 4 di mattina, col che c'hai la paura di non sentirli, perché uno dorme e alcuni hanno il sonno pesante, vabbè, e se non apri la porta chiaramente ti becchi un peggioramento delle tue condizioni di detenzione. Bene, quindi c'è questa cosa qui. A sto punto la misura penitenziaria ha dato alla Telecom un altro richiesta, e questa richiesta adesso sarà un altro viaggio di soldi. C'è quindi questa grande richiesta dei detenuti del braccialetto elettronico, una carenza da parte dell'amministrazione penitenziaria di fornire i braccialetti elettronici. Dunque, questo foglio, il Sole 24 Ore, ci ricorda, riepiloga anche tutti i passaggi che hanno introdotto nel sistema di misure alternative in Italia è il braccialetto elettronico, e sono questi. Nel 2000 viene affermato l'uso del l'impiego del braccialetto elettronico con la con il decreto legge del 341 del 2000 e del 2 febbraio, e quindi che dice appunto per le misure alternative, cioè, cioè. Poi nel 2003 il ministro degli interni firma a febbraio una convenzione con Telecom S.P.A. che insomma sta facendo i soldini, che non vende solo i braccialetti elettronici ma anche i monitor per poi, con cui si controlla i movimenti che questa persona che c'ha la cavigliera fa. Quindi nel 2003 con Telecom firmano questo, questo, perché prima è stato fatto in via sperimentale in una zona, poi adesso è stato nel 2003 posto a livello nazionale, quindi Telecom ha dovuto impiantare le centraline, i monitor che permette il controllo a livello nazionale. Nel 2000 e da qui poi si è fermato un po' tutto, perché allora era la fase, sapete, della grande incarcerazione, era impazzito il paese, i governanti, tutti quanti, e dal 2003 è iniziato questo grosso, si è cambiata linea, no? Non più misure alternative ma tutti in galera, infatti le galere scoppiavano. L'idea era, lo sapete, non è che era un cambiamento della concezione del sistema repressivo, era il fatto che una parte che stava al governo allora vedeva nella possibilità di costruire nuove carceri un grosso affare, e sono un grosso affare. Le carceri costano circa un metro cubo di edilizia penitenziaria, costa dalle 12 alle 15 volte in più di una casa di civile abitazione. Perché? Perché lì dentro c'è tutto: ferro, muri 10 volte più grossi, sistemi elettronici di controllo, di allarme, un'ira di Dio. Quindi grosso affare per i palazzinari amici dei governanti di allora. Sapete chi governava in quel paese, è inutile ricordarlo, insomma, una banda di criminali. E quindi si è fermato tutto, poi il carcere è scoppiato, c'è stata la sanzione europea, non ho dovuto cominciare a scendere, è stato reintrodotto. Quindi nel 2011, il 31 dicembre, scadeva la convenzione con Telecom, che viene rinnovata per 2000 braccialetti elettronici. Sono sempre cavigliere, però ormai il termine in Italia si usano sempre le parole sbagliate, non adeguate, diciamo, no? Tutto, da quando timbrare il biglietto, che si è detto obliterare, che non c'entra niente con timbrare, però qualche genio, cioè Italia è piena di genio, sapete, ha detto usiamo sta parola, gli piaceva il suono della parola, non c'entrava niente con l'azione che fai di timbrare un biglietto, gli piaceva obliterare, e quindi è venuto fuori. Ma quasi tante parole sono sbagliate, frutto dei geni italici che gli pensano di essere intelligenti, invece poracci sono sì e no analfabeti, meno che analfabeti, più stupidi degli analfabeti, ma questa è la realtà italiana. La classe dirigente viene selezionata così, basta che rispetta i diktat dei potenti, va tutto bene. Poi nel 2012 a maggio di nuovo la sentenza del TAR del Lazio dichiara inefficace quella convenzione, quindi perché non c'era stata una gara, ovviamente gli accordi con Telecom, e quale gara, è amico degli amici, e quindi tutto rimetti tutto in ballo, altre cose, Telecom fa un altro ricorso, insomma alla fine dopo tutto questo marchingegno nel 2014 la cosa va bene. Quindi e l'articolo 275 bis del codice di procedura penale dispone che il ricorso allo strumento elettronico diventi la regola, salvo i casi in cui il magistrato non lo ritenga necessario. Quindi è la regola, tranne i casi eccezionali. Quindi ce ne vuole, ne sarebbe stata necessaria una grossa quantità, non c'era. I tempi per Telecom per costruire queste cose sono stati lunghi e bla bla bla bla, e siamo arrivati al 2016, e adesso il Ministero degli Interni indirà a breve, a giorni, un bando di gara per la fornitura di diverse migliaia di braccialetti. Chi vi li vincerà lo potete immaginare. Il problema non è che tanto di queste cose, non è le malversazioni che fanno parte della bandiera italiana, il problema è che nel frattempo si sono accumulati, c'è una coda di 400-500 detenuti che aspettano il braccialetto elettronico, e quindi qui molti hanno fatto ricorso perché non mi danno, se ci fosse il braccialetto sarei uscito subito, invece non c'è, quindi si ritarda tutti i sistemi di controllo dell'abitazione, ma non è colpa mia, dice l'avvocato del detenuto, che non ci sia il braccialetto è colpa vostra. Allora qualche volta la Cassazione ha dato ragione al detenuto, qualche volta no, adesso c'è un ricorso complessivo alle corti riunite per decidere se braccialetto o non braccialetto, quella, quel detenuto deve uscire una volta che la macchina di sorveglianza gli ha concesso la misura alternativa. Tutto questo pandemonio, siamo, vedete che insomma il paese è bello, ricco e piacevole. Hold, squeeze, and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Allora, questa musica è adatta per riprendere il discorso dell'abolizionismo. Dunque, alcune precisazioni vanno fatte, perché poi usare la parola, usare come diciamo prima, appunto, per evitare gli strafalcioni che fanno normalmente i media, televisioni, anche professoroni e soprattutto i governanti. Usiamo le parole corrette. Abolizionismo significa, abolizionismo riferito al sistema reclusorio in generale, significa che il nemico che abbiamo di fronte quando parliamo di abolizionismo carcerario non è soltanto, o non è una parte del sistema di giustizia criminale, non è una parte sola, il carcere, le sbarre, le mura, la condizione detentiva, è tutto il sistema della giustizia nel suo complesso. Per questo quando si parla di abolizionismo si parla di abolizionismo del sistema del controllo penale riferito a quello che ti manda in carcere, ma anche a quello, alle misure alternative, ma anche al sistema dei CIE, i centri di internamento ed espulsione, di identificazione ed espulsione, in realtà sono di internamento più che di identificazione comunque, e anche tutto il sistema del controllo psichiatrico, tutto quello che è reclusione, che è impedimento della libertà delle persone. La cosa credo sia abbastanza comprensibile. L'unica cosa che è meno diretta di comprensione, molti dicono: perché le misure alternative le riteniamo un controllo penale? Lì la persona non sta più in carcere, è libera. Non è libera, non sta più in carcere, ma non è libera. È un sistema di carcerazione diffuso nel territorio. C'è stato in antichità e si ripropone oggi per una serie di motivi che abbiamo spiegato altre volte. Adesso non ci ritorniamo, poi torneremo in seguito. Perché? Intanto perché il sistema carcere ha fallito dal nostro punto di vista, ha fallito da sempre, perché distrugge le persone, le annienta, le massacra, oppure le fa diventare veramente criminali, talmente la rabbia che gli induce, e ha fallito anche per loro, perché non ha raggiunto non ha difeso la tranquillità sociale. Quindi è del sistema nel suo complesso, no? Quindi se diciamo abolizione del carcere non significa solo abolire, buttare giù le mura delle carceri, è una cosa un po' più grossa. E qui viene subito un problema: le carceri sono nate perché? Domanda, punto interrogativo. Noi l'abbiamo provato a dire tante volte, anche sui primi numeri di Scarceranda c'è un po' la storia del carcere, un riassunto della storia del carcere, più volte anche altri scritti sul libretto di Scarceranda, in cui cercava di far di dire, insomma, di, ma perché altri grandi ricercatori hanno sviluppato questo percorso, perché è nato il carcere e a che cosa doveva servire. Il carcere nasce intorno al 5-600, ormai lo sappiamo, si chiamavano workhouse, qualche caso li chiamavano ospedali nell'area francese, servivano a erano inseriti in questo discorso. Nascevano gli opifici, le fabbriche, il sistema industriale, andavano costrette le persone a andare a lavorare lì dentro, zitti e buoni, in condizioni spaventose, in orari lunghissimi, si è raggiunto perfino 14 ore, e ci andavano anche i bambini, i ragazzi, i bambini minori di 18 anni, bene, e quindi molta gente scappava, meglio la fame che vivere in quelle condizioni. Quindi non era proprio alla portata del genere umano questo sistema di industrializzazione. Non piaceva agli esseri umani, non si è fatto un referendum, ma il fatto che la gente che scappava andava a fare i vagabondi. E quindi il carcere nasce per dire no, li chiappavano, li massacravano di botte, molti li hanno ammazzati, e soprattutto però li portavano in dei posti chiamati case di lavoro, in cui col secondino a fianco dovevano fare quello che avrebbero poi fatto per tutta la vita, per il resto della vita, cioè svegliarsi la mattina presto, mettersi a lavorare, fare lo spuntino a metà giornata, ricontinuare a lavorare, la sera andare a dormire e la mattina dopo si ricomincia. Ma non solo dovevano impararlo per se stessi, ma anche per i propri figli, perché dovevano predisporre la prossima forza lavoro. Da qui viene il termine proletari, non perché ha a che vedere a chi fa figli il proletario, ma ha a che vedere al fatto che colui che non ha niente e ha solo la forza lavoro da vendere, si deve imparare un modo disciplinato di venderlo, un modo deve essere proprio organizzato, perché la vende in un certo modo, cioè tu vai in fabbrica o in un altro ufficio, in un posto di lavoro qualsiasi, vale anche quello super moderno tecnologico oggi, è sempre la stessa cosa, quello che spaccava le pietre e quello che lavora sul computer sono la stessa identica cosa, non vi inventate che ci sono cambiamenti, perché i cambiamenti ci sono e sono tanti, ma non su questa cosa. Questa cosa, il fatto che tu vendi la tua forza lavoro, è rimasto uguale, appunto, sia dallo spaccapietre all'ingegnere che se lavora a catena e fa quello che vuole il padrone, chiaramente è un venditore di forza lavoro, e chiaramente appunto tutto questo è stato prodotto da una violenza inaudita, forse la più grande, perché è durata nel tempo, sono 5 secoli che dura, 600, 700, 800, 900, siamo al 5° secolo in cui è durata questa violenza ammaestrante. Ci ammaestrano a fare quello che dobbiamo fare. E allora uno dice, vabbè, ma se aboliamo il carcere, visto che era nato per costruire una popolazione ammaestrata a rispettare disciplinatamente gli ordini della produzione e della convivenza nelle metropoli, è possibile che tutto il resto rimane inalterato, oppure levando questo crolla tutta la struttura? È la seconda, infatti, che ho detto. E qui per questo l'abolizionismo è molto importante oggi rimetterlo, perché non si dà cambiamento della società se non si mette in discussione le strutture fondanti di questo sistema capitalistico industriale, che è quello che abbiamo oggi, no? Chi si lamenta dell'economia che va male, gli sfruttati, i poveri che diventano sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi, i giovani non trovano lavoro, devono immigrare, i massacri nell'immigrazione, cioè tutte queste brutte le guerre, tutta questa roba qui che non piace a nessuno, poi molte persone non trovano il modo per opporsi. Bene, tutta questa apparecchiatura qui si regge su alcuni pilastri: il profitto, primo il profitto di chi c'ha in mano i capitali e quindi vuole aumentarli, accumularli, e chi invece appunto subisce questo sfruttamento. La regolazione di queste cose è il sistema repressivo nel suo complesso, basato su carcere, sistema penale, tutto il resto, tutte le altre cose. Chi devia da questo, da fare la persona ordinata, disciplinata, che abbassa la testa e fa quello che gli dicono i potenti di fare, va bene. Tutti gli altri interviene lo staffile della repressione, del carcere, del disciplinamento, dell'ammaestramento. E infatti non a caso il grido di chi vuole cambiare questa cosa è: alziamo la testa, perché loro ci vogliono con la testa chinata. Sguardo a terra, ricordate, no, che dice occhi a terra, dicono, questo modo di della più terribile orribile, oltre che terribile, cultura anche italiana, no? Che in cui il pater familias diceva soprattutto alle ragazze quando uscivano di casa: occhi a terra. Dimostra questo: se tu hai gli occhi a terra, la testa china, quindi non alzi la testa, non guardi in faccia la persona, quindi in atto di sfida. Ecco, noi dovremmo imparare ad alzare la testa. L'abolizionismo significa iniziare ad alzare la testa. Dobbiamo prima pensarlo in testa nostra e poi buttare giù le mura. Ho detto, la cosa più semplice sarà, il problema è buttare, perché ci abbiamo tutti dentro il sistema della sanzione. La sanzione, ogni gruppo d'amici ha delle regole, per non parlare. Quelli che trasgrediscono queste regole vengono sanzionati, certo non con la galera né con la repressione, però per esempio espulsi. No, l'espulsione da un collettivo, da un gruppo d'amici, da una comitiva, è il modo più normale per sanzionare quelli che non rispettano queste regole. Voi dite, allora non si deve sanzionare nessuno? Non con la punizione, ovviamente. C'è nella storia dell'umanità, oltre che nell'elaborazione, un altro metodo, quello di critica, autocritica, trasformazione. Mentre invece questo, basato sul controllo sul sistema penale, è critica, punizione, tutto qua. Critica, punizione, non serve questa cosa qui, ma soprattutto perché a distanza, non solo in questi 5 secoli in cui c'è stato proprio il sistema galera, quello che conosciamo, lo stesso di oggi, ma anche precedentemente, quando le punizioni, le sanzioni erano addirittura più violente, sì, le mutilazioni, la fustigazione in piazza, la pena di morte, l'esclusione, mandare fuori dalla città e così via, no? Bene, quindi abolizionismo è una prospettiva, non è che si raggiunge domani, perché appunto sta dentro un cambiamento di tutto l'impalcatura, è tutta un'impalcatura che si tiene, un po' come un arco. Cioè, avete presente l'arco di mattoni, no? È fatto di tanti mattoni, un arco, no? Vedete, si regge in piedi perché ogni mattone sta al posto suo, ogni mattone ha la funzione di contrastare il mattone che sta alla sua sinistra e quello che sta alla sua destra. Se levate un mattone, che cosa succede? Che probabilmente cade tutto, anzi sicuramente cade tutto. Ecco, l'abolizionismo è un mattone, è quello che sta al centro dell'arco, quello che ha chiamato la pietra chiave di questo arco un po' bruttissimo. Quindi è una prospettiva di cambiamento sostanziale di questa società, in cui però il sistema della giustizia nel suo complesso è fondamentale. Qui ci sta anche, qui bisogna vedere alcune parole, no? Non le vediamo. Altre parole che stanno dentro questo sistema, attenzione qui, qualcuno possono saltare i nervi, ma attenzione. Il sistema della giustizia nel suo complesso, che cos'è? Un insieme di leggi, un ordinamento giudiziario. Ci sono delle leggi che dicono: questo è consentito, questo è vietato, questa cosa è vietatissima e quindi la sanzione è più grossa, questa cosa è vietata e la sanzione è più piccola, quindi sarà, c'è anche una graduatoria. Se tu fai una violazione puoi prendere questa sanzione piccola, se tu fai quest'altra violazione puoi prendere una sanzione più grossa, se tu fai quest'altra la prendi tantissimo. Chi stabilisce questa graduatoria? Ecco, già questa cosa ci permette di mettere in discussione il sistema penale nel suo complesso. Perché? Portiamo un esempio, tantissimi potremmo prendere, però è un lavoro palloso, non per niente piacevole, no? Prendere, sfogliare il codice penale e vedere se confrontando, però facciamo un confronto molto comprensibile per tutti. Per esempio, voi ritenete, no? Ciascuno di voi può ritenere che il furto in appartamenti o lo stupro, quale dei due è più grave? Non lo so, credo che insomma la risposta è diretta, immediata e semplice. E però nel codice penale italiano attualmente in vigore il furto in appartamenti è punito con un massimale uguale, in qualche caso superiore, allo stupro. Quindi per la società italiana, in cui facciamo parte, è più grave fare un furto in un appartamento che violentare una ragazza. Chiaro che alcuni vorranno dire sì, certo, è sbagliata questa cosa, perché quelli che fanno le leggi non capiscono niente, cercano solo il consenso elettorale, però manteniamo, abbassiamo quindi la sanzione per il furto in appartamenti, alziamo quella dello stupro, perché questo rispecchia il sentire di tutti. Io spero che sia così, e va bene, quindi diciamo, la facciamo, invece di fare 10 anni per tutte e due facciamo 20 anni per uno e 3 anni per l'altro, no? E allora avrebbero, secondo alcuni, abbiamo riportato nelle proporzionalità a questi due reati. Non è che si è risolto il problema, però intanto questa cosa non si è fatta. Attenzione, non solo, va vista un altro elemento: alcuni reati sono scomparsi, alcuni che erano reati molto pesanti, puniti addirittura con la pena di morte, sono scomparsi. Per esempio, vediamo se lo ve lo ricordate. Per esempio il contrabbando. Il contrabbando, se torniamo indietro di quasi 2 secoli, quando l'Italia non era ancora unita, ma valeva per tutti i paesi, no? Erano tutti statarelli, no? Per Toscana, quello del Papa. Questi statarelli in gran parte vivevano non tanto sulle tasse, quanto sulle tasse dei residenti, quanto sulle tasse delle merci che entravano e uscivano. Il dazio, si pagava il dazio per le merci che entravano. Ovviamente i contrabbandieri portavano queste merci scavalcando il dazio, e quindi per guadagnare di più. Bene, questi contrabbandieri in alcuni casi venivano puniti con pene severissime, addirittura mutilazioni eccetera, addirittura con la pena di morte. Adesso non è nemmeno più un reato penale, è un reato amministrativo. Perché? Perché a parte sono saltate le frontiere, la globalizzazione, che significa come fare un furtarello, no? Ecco, perché questi cambiamenti? Da che cosa sono? Non solo perché qualche mente perversa, come era nel caso dei furti in appartamenti e stupro, lì può darsi che ci sia la mente perversa, che abbondano in questa, nella parte alta di questa società, le menti perverse, tanto per essere chiari. Però insomma, in questo caso dice, perché scompa? Perché non serve più. E allora c'è un principio etico-morale che guida la sanzione, oppure è un fatto di interessi monetari, proprio dei soldi, euro, prima erano soldi, fiorini, adesso sono euro, o un interesse monetario specifico di alcuni poteri forti? Allora, c'è un altro elemento che va chiarito. Diciamo, il sistema penitenziario, e quello anche manicomiale, quello dei CIE, cioè tutto questo sistema reclusorio concentrazionario, si basa sull'ordinamento giuridico del paese. Un paese c'è un ordinamento giuridico che sta nel codice penale, tutta questa cosa mastodontica, enorme, chi viola quello appunto ha a che fare con la repressione, con la giustizia, ossia quindi col carcere, sanzione eccetera. Qual è la parola che caratterizza tutto questo intreccio di cose? La legge, i codici penali, i vari articoli del codice penale, le sanzioni che corrispondono a ciascun articolo, quindi a ciascun comportamento, il sistema carcerario, il sistema carcerario esterno, quello interno, il sistema manicomiale, il sistema adesso è nato il CIE, tante altre. Come si chiama tutto questo complesso di cose? Una parola che ci dovrebbe far tremare e invece usiamo con troppa semplicità, con un significato completamente opposto a quello che è. questa parola è diritto. Cioè il diritto non è altro che l'insieme di tutte queste cose che ho detto fino adesso. Il diritto è il sistema penale, c'è anche quello civile ovviamente, no? Il sistema penale e quello civile, il codice penale e il codice civile, questi due mastodonti, con le varie sanzioni per ogni trasgressione, con quindi le punizioni che sono dal carcere, tutte le altre cose, quelle economiche e via via, tutto questo sistema qui, leggi, regolamenti e violazioni e punizioni, si chiamano il diritto. È questo il diritto. Il diritto non è altro che tutto questo sistema sanzionatorio, legislativo, di regole, eccetera, che permettono di mantenere inalterata la situazione esistente e di riprodurla così com'è. Questa società basata sulla proprietà privata, sullo sfruttamento dei pochi verso i tanti, sul fatto che alcuni per campare devono vendersi la propria forza lavoro a due soldi e a volte rimangono disoccupati e non mangiano nemmeno, cioè tutto questo compreso cose, le guerre, la produzione di armi, tutte queste cose che noi tutti i giorni stiamo a lamentarci al bar con gli amici, con i compagni, al collettivo, dovunque. Tutto questo sistema qui si chiama il diritto, perché che il suo significato è permette di riprodurre esattamente così com'è questa società, mantenendola inalterata e facendo sì che i ricchi rimangano ricchi, al limite si arricchiscano un po' di più, e i proprietari poveri rimangano poveri. E allora perché lo usiamo così? Noi abbiamo i diritti, noi non li abbiamo i diritti, noi non vogliamo i diritti, noi vogliamo il cambiamento della nostra condizione dovuto al fatto che non ci piace la nostra condizione, che può essere di disoccupati, di salariati a basso salario, di persone che affittano una casa ad affitti alti, oppure non ce la fanno più a pagare e vengono sfrattati, tutte le cose inutili, facciamo l'elenco, faremo stasera, arriviamo a notte, tutte le cose di cui giustamente poi le sapete tutti e ci lamentiamo tutti, tutte queste cose sono il diritto, perché permettono di riprodurre l'esistente. Allora noi diciamo i nostri non ci abbiamo i diritti, noi ci abbiamo le nostre condizioni di vita che vogliamo cambiare, quindi vogliamo cambiarli, vogliamo un altro diritto che non sarà fatto da leggi e sanzioni, ma sarà fatto da mettere in comune, in maniera condivisa possibilmente, le esigenze, i desideri, le aspettative delle persone collettivamente espresse, che possono costruire appunto la voglia di fare delle cose e condividerle, e quello sarà il nuovo diritto. A quel punto, ma in quell'altra società, avrà senso parlare del diritto. Parlare dei diritti, del diritto o dei diritti oggi è un po' darsi una zappa molto tagliente sui piedi, e ti taglia tutte la luce e tutti gli altri diritti, per non dire peggio. Ovviamente questa cosa andremo a fondo, decostruiremo questa parola per trovarne veramente, perché tutti spaventa, ma come, siamo in tutte le manifestazioni, ci sta la parola vogliamo i nostri diritti, non ci sono i nostri diritti. I nostri diritti sono che tu continui a fare lo sfruttato, il morto di fame, o quello che paga l'affitto così come lo vuole il palazzinaro, quello che prende un salario così come lo vuole il padrone, o che se vuole ti licenza. Questi sono i diritti, mica vogliamo questi, e non siamo mica autolesionisti, addirittura masochisti, no, non, spero che non lo siamo. Quindi non vogliamo i diritti, vogliamo un cambiamento in meglio della nostra condizione, fino a superare questa situazione che ci tratta da schiavi. E questo è un discorso che dovrà affrontare, perché è molto, c'è una carenza decennale dell'affrontamento, più che decennale, molto vecchio, dell'affrontamento di questo problema. Guardate, queste cose non me le sto inventando io, sono gli elementi portanti, sì, magari sarei un genio se avessi inventato io. No, sono semplicemente, ho ripreso una serie di ragionamenti fatti, addirittura sono nati a metà dell'Ottocento, quando è nato il movimento operaio, perché ha capito che doveva aggredire questi elementi, altrimenti avrebbe ridotto la sua attività soltanto a fare quello che volevano i padroni e chiedere soltanto una distribuzione più equa della ricchezza. E questa cosa è la morte totale di tutte le istanze di cambiamento sociale. Pensare che il problema è solo ripartire la ricchezza, ma in questo caso sarebbe da dire la miseria tra i poveri, non è assolutamente una prospettiva importante, utile da urlare. Bene, siamo arrivati alla fine. L'elemento da cui partiamo la prossima volta è il fallimento. Perché si dice che il sistema carcerario o comunque il sistema penale è fallito? Lo dicono pure i potenti, lo dicono pure i governanti. E qual è la differenza del fallimento che vedono loro e il fallimento che vediamo noi? Le mosse che vogliono fare loro e quelle che dovremo fare noi? Lo vedremo prossimamente. Allora, intanto sono le 16, noi interrompiamo qui la trasmissione, finisce qui, ci vediamo, ci sentiamo, anzi vediamo, no? Per vederci dovete venire qua.